Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenute a Mebius, un numero speciale, speciale per vari motivi, il primo per il tipo di argomento che stiamo per trattare, ma anche per il fatto che effettivamente qui a Mebius non abbiamo mai avuto una puntata quasi interamente per tre quarti dedicata a un solo argomento. Per fare questa cosa qui con me Alberto Agliotti. Ciao Alberto. Ciao Federico, buonasera a tutti. Abbiamo seguito insieme questo tema che è il tema TAV, no TAV, detti così in altri periodi della vita sarebbe sembrato un grande mistero, ormai comprensibile invece. Il TAV, no TAV è diventato una parola sola che però sappiamo rimanda a una grande questione. Allora Mebius è una trasmissione di scienza e di tecnologia e anche di innovazione. Non vogliamo, affrontando questo tema, entrare nel merito di questioni di tipo politico che comunque pensiamo non abbiano assolutamente una valenza inferiore, però vogliamo cercare di capire invece quali sono gli aspetti più tecnici che rimandano a questo dibattito e quindi a visioni diverse sul fatto che questa opera, questa grande opera, sia conveniente farla e non farla. Che abbiamo in studio? Abbiamo Mario Virano. Buonasera Virano. Buonasera. Commissario di governo per la Torino-Lione, per l'alta velocità. E poi abbiamo anche Angelo Tartaglia. Buonasera Tartaglia. Buonasera. Docente del Politecnico di Torino ed è anche il consulente tecnico per la comunità di Val di Susa e Sangone, che sono appunto le zone interessanti di quest'opera. Ecco Alberto, loro si sono, come dire, raccontati tante cose a distanza, ma hanno accettato e siamo molto contenti di confrontarsi direttamente qui live, un po' per la prima volta direi. Ma almeno in pubblico credo, perché loro direttamente so che si conoscono da tempo, per questioni anche proprio legate a quest'opera, e adesso abbiamo il piacere di averli qua e poter sentire direttamente dalle loro voci che cosa ne pensano, perché tu dicevi non parliamo di scelte politiche o ideologiche, è vero, ma in realtà la politica comunque si dovrebbe basare su dati concreti e quindi le scelte vanno fatte sul a partire da visioni di tipo tecnico scientifico fondamentali. Adesso poi c'è stata anche tutta questa attualità della Francia, quindi il tema è diventato un po' più caldo. Allora, se siete d'accordo Virano e Tartaglia, io direi di incominciare da quella che possiamo definire, Alberto, la scenaristica, cioè per interpretare il significato e il valore di quest'opera, quindi farla o non farla. C'è uno scontro di strumenti che interpretano il futuro, cioè tracciano scenari rispetto non al prossimo mese o al prossimo anno, ma su periodi molto lunghi. Ormai queste sono delle scienze, queste della scenaristica, però non necessariamente portano agli stessi risultati. Allora io magari comincerei da Angelo Tartaglia, non mi faccia tutta la scenaristica, cominciamo da alcuni pezzi, no? Alcune, come dire, parole chiave che lei ritiene siano fondamentali nell'interpretare, se guardiamo avanti, interpretare negativamente quest'opera. Sì, io mi riferisco sostanzialmente a quelle che sono le motivazioni che vengono portate per realizzare l'opera, le quali prevedono uno sviluppo futuro dei traffici attraverso la frontiera italo-francese sostanzialmente, e che si fondano, questo sviluppo, questa crescita che viene attesa, sulla idea che l'economia europea nei prossimi decenni crescerà e crescerà in maniera abbastanza regolare. E poi si fondano su un'altra ipotesi, che se l'economia europea crescerà, il traffico materiale, cioè le tonnellate, crescerà ancora di più. Ora, un'osservazione banale al riguardo è che questo tipo di scenario, se viene presentato come un auspicio, ognuno è libero di esplicare quel che vuole, ma con quello che sta succedendo è quantomeno un po' troppo ottimistico, dal momento che l'economia mondiale addirittura è in crisi e non è ben chiaro che cosa succederà nei prossimi anni. Sappiamo solo quello che è successo negli anni precedenti, che hanno visto dal punto di vista del traffico un calo continuo. In più l'osservazione, un'osservazione che si può fare, è che anche l'Unione Europea si pone come obiettivo, che è un obiettivo di buon senso comunque, quello di ottenere il disaccoppiamento, il decoupling, lo sganciamento di quello che è l'auspicabile aumento del benessere delle popolazioni europee dall'aumento quantitativo delle tonnellate che vengono trasportate. Le tonnellate seguono delle leggi fisiche che non sono decise dai parlamenti o dagli economisti, ed è chiaro che avendo dei mercati sostanzialmente saturi per la quantità di oggetto e beni di consumo che sono reperibili, non è pensabile che i flussi materiali continuino indefinitamente a crescere, non è pensabile nemmeno che crescano molto nei prossimi decenni, mentre è ovviamente auspicabile che il benessere generale della popolazione aumenti, al di là del fatto che poi questo possa avvenire o meno. Mettendo insieme queste due considerazioni, affermo che lo scenario di milioni e milioni di tonnellate che attraverseranno le Alpi da est verso ovest nei prossimi 20 anni è sostanzialmente infondato, del tutto incredibile. Questo detto in estrema sintesi. Mario Virano, allora, Tartaglia dice anche una cosa che è al centro di tante altre ipotesi di sviluppo, no? Per esempio questo fatto che ci si sta impegnando per un'economia che possa crescere ma anche con meno merci, no? Quindi è un grande disegno di sostenibilità. Però cosa dice lei? Tartaglia è una persona seria e argomenta sempre in maniera molto ragionevole le sue considerazioni, le sue tesi, però ha un approccio che un po' paradossalmente appare un po' a me eccessivamente mercantile, nel senso che il disegno europeo in materia di infrastrutture, a partire dal libro bianco di Delors fino alla recentissima presentazione del Core Network Europe fatto da Callas il 18 di ottobre 2011 ad Anversa, fanno un ragionamento leggermente più complesso, cioè non dicono soltanto bisogna fare le infrastrutture per rispondere alla domanda, me la faccia dire in termini un po' rozzi, mercantile, ma le infrastrutture sono un formidabile elemento di connessione territoriale, di coesione sociale a livello continentale, esattamente come l'euro con tutti i suoi problemi, esattamente come Schengen come tutti i suoi problemi. E non è un caso che nel presentare una proposta nuova fondata su 2 anni di lavoro e di studio che ha ovviamente tenuto conto delle problematiche che nel frattempo erano insorte, questo lavoro, questo risultato fatto dopo 2 anni di autonomo lavoro da parte della Commissione europea, ha individuato sulla totalità dei corridoi una decina di operazioni cruciali, tra cui la Torino-Lione, presentando anche una proposta di allocazione di risorse che è fortemente caratterizzato su 2 grandi obiettivi: eliminare le fratture della coesione dei collegamenti territoriali e sociali costituiti dalle Alpi da una parte e dai Pirenei dall'altra, prospettando una cosa fortemente innovativa come quella di una allocazione di risorse fino al 40% a fondo perduto, che ovviamente sono sottoposte al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa, ma che danno l'idea di quale sia la visione strategica. Poi, se vogliamo, parliamo anche, ma veramente, seriamente, analizzandola un po' più a fondo, il tema dei flussi di traffico, del calo dei flussi di traffico, delle prospettive, eccetera. Ma intanto c'è un primo grande dato, che questo grande disegno, che vale per un orizzonte temporale di 100-150 anni, come fu quello precedente, non è finalizzato solo, esclusivamente, e non trova le sue motivazioni, solo e soltanto nella risposta ad una domanda più o meno conclamata. Poi parliamo anche della domanda, perché ci sono molti elementi da dire anche su questo. Riprendiamo il nostro dibattito su TAV, no TAV. Ricordo che in linea abbiamo Mario Virano, che è il commissario governativo alla Torino-Lione, e Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino, ma è anche consulente del Comitato delle Comunità Montane di Val di Susa e Sangone. Lei, Virano, diceva poco fa che anche restando nel campo delle valutazioni tecnico-scientifiche, però fa parte di come trattiamo questi temi anche tenere presente che vi possono essere altre ragioni geopolitiche che devono poter influire sugli aspetti. questi aspetti tecnici. Ecco, però entriamo nel dettaglio proprio invece di questi aspetti tecnici. Verano, lei parlava prima della domanda e quindi del flusso di traffico, vediamo un po'. Diciamo, le obiezioni che vengono fatte al Torino-Lione sono state moltissime, ma adesso, grazie a tutto un lavoro fatto e al dibattito anche controverso, anche molto aspro che c'è stato, si sono concentrati proprio su questo fatto che ricordava il professor Tartaglia, delle motivazioni in termini di domanda e offerta. Sì. Allora, da questo punto, mentre invece altre questioni relative al rischio ambientale, eccetera, sono notevolmente sbiadite, vengono sollevate solo più occasionalmente in alcuni momenti. Allora, affrontiamo di petto questa questione. Allora, è indubbio, ma l'abbiamo pubblicato noi come quaderni dell'osservatorio quando Tartaglia ne faceva ancora parte, osservo, che la linea storica che oggi collega Torino con Lione è sottoutilizzata e che i traffici sono sensibilmente calati da molti anni, no? Quindi non c'entra se non in modo molto contingente la crisi dal 2008, no? È un trend di lungo periodo, no? Allora, da questa considerazione, che è un dato di fatto, chi si oppone a questa linea trae la considerazione che a traffici decrescenti non ha senso offrire salti di qualità, soprattutto di natura infrastrutturale, dal punto di vista dell'offerta, no? Il problema vero è che, dal nostro punto di vista, è che questo calo dei traffici deriva da una inadeguatezza sostanziale e inemendabile, sottolineo questo aggettivo, no? Dell'attuale linea. Cioè, l'attuale linea, detta con una battuta, è una mulattiera ferroviaria, perché costringe i treni a salire a 1300 metri di quota, con tutto quello che questo comporta, e li costringe a passare in un'opera inaugurata nel 1871, concepita nel 1850, a doppio binario dentro un unico fornice, e che non ha mai consentito il passaggio delle sagome, quelle competitivamente più efficienti, più presenti nel mercato trasportistico internazionale, e per renderle almeno temporaneamente compatibili sono stati realizzati degli interventi, non potendo allargare la galleria, di abbassamento del piano del ferro dal 2002, che ha comportato di chiudere l'esercizio prima su un binario e poi sull'altro, e quindi di esercire praticamente per 10 anni il traffico nella galleria a senso unico alternato. Ciascuno di noi, quando c'è un senso unico alternato nelle vie nel proprio quartiere, sa benissimo che la prima cosa che fa è che prende un'altra strada, e ovviamente anche gli operatori logistici, gli operatori ferroviari hanno fatto la stessa considerazione. Ecco, Virano, quindi coprire il calo del traffico in presenza di un'infrastruttura che a 1300 metri di quota non ha mai consentito il passaggio delle sagome commercialmente più praticate, e che per 10 anni, in circa 9 anni e qualcosa, è gestita a senso unico alternato, come dire, è un dato quasi, una considerazione quasi banale. Ecco, Virano, quindi lei dice sostanzialmente due cose: che non si può ragionare sul fatto che i traffici sono in calo per dire quindi non bisogna costruire un nuovo tunnel, ma piuttosto i traffici sono in calo perché il tunnel vecchio non va bene. In più, la seconda cosa, questo tunnel per 10 anni è rimasto a senso unico alternato. Tartaglia, però, voi avete fatto dei calcoli a partire proprio dai dati che arrivano dal governo e dall'osservatorio. Lei cosa risponde a Virano? Quello che è in calo dal 2001-2002. la 2 non è il traffico attraverso la linea ferroviaria della Val di Susa, ma è il traffico terrestre tra Italia e Francia in tutte le modalità, compresa la strada, mentre negli stessi identici anni il traffico globale attraverso la frontiera svizzera e quella austriaca sono in aumento, anche prima che entrassero in funzione i tunnel, l'unico che adesso è già in funzione, quello dell'Espert in Svizzera, quindi c'è una causa strutturale legata al fatto che una connessione tra zone analoghe sature e le altre sono collegate ai porti nord-sud che vanno poi verso la Cina o l'India. Ma a parte questo, prendendo i dati governativi, noi abbiamo provato a prenderli sul serio, cioè diciamo sono infondati, però prendiamoli, sono scritti nei documenti, ci sono delle previsioni al 2035 che hanno dei risultati paradossali. La previsione, così viene detta, di traffico attraverso sulla sola ferrovia della Valle di Susa nel 2035 prevede un flusso di 40 milioni di tonnellate di merci che equivalgono a 10 volte quello che è passato nel 2010. Contestualmente però lo stesso meccanismo prevede un aumento del traffico su strada, sull'autostrada, e portando ad un flusso di merci sulla strada che è 3 volte quello che è passato nel 2010. Il risultato di queste previsioni, che secondo noi sono infondate, ma che i documenti governativi presentano come previsioni, sono un flusso di camion attraverso la Valle di Susa che è 3 volte quello del 2010, 1,5 milioni di camion in più all'anno. In realtà la situazione è anche peggiore, perché si dichiara oggi che la soluzione da adottare è quella cosiddetta low cost, in cui si realizza il tunnel di base, le due stazioni in testa e in coda, qualche adeguamento sulla linea, ma poi si usa la linea storica. Allora, se si usa la linea storica, il tunnel aggiuntivo non modifica la capacità della linea, è come dire che c'è un viottolo in entrata, un viottolo in uscita e in mezzo faccio un pezzo di autostrada, è ovvio che la portata è quella del viottolo. Quindi se la previsione è 40 milioni di tonnellate nel 2035 che vorrebbero andare su ferrovia, queste non potranno andarci perché la ferrovia ne porta solo 20. Questi 20 milioni di tonnellate quindi dovranno riversarsi sulla strada. Questo vorrebbe un flusso di camion sull'autostrada della Val di Susa che è più di quattro volte quello di oggi. Ma la situazione è ancora peggio, perché se per caso i francesi davvero volessero pensare anche sul loro versante alla soluzione low cost e non fare le altre opere, gli altri tunnel di adduzione e così via, di fatto questo modo di aggirare il nodo di Chambéry, la portata della linea è ancora minore, perché la strozzatura più grande oggi è a Chambéry. Il nodo di Chambéry non è in grado di indirizzare verso l'Italia più di 14 milioni di tonnellate. Se ce ne saranno 40 milioni di tonnellate nel 2035, il numero di camion sulla strada sarà 5 volte oggi. Allora, questo non è esattamente un futuro di progresso e di benessere, è un futuro allucinante dal punto di vista ambientale, numero di incidenti sulla strada e via discorrendo. Sono conseguenze paradossali del modello previsionale che viene utilizzato e che, se non viene forzato fino a questo livello, si ostina a dare dei risultati calcolando costi-benefici che sono sostanzialmente negativi. Ora, le osservazioni sono in definitiva queste. È chiaro che ci sono un sacco di dettagli da sviluppare, compreso il fatto di quali sono i flussi mondiali di traffico, il perché il nord-sud cresce e est-ovest invece stagna e via discorrendo. Ma questi risultati paradossali mi sembra maledettamente fragili per giustificare un'opera delle dimensioni di quella di cui si sta parlando. Siamo nell'ultima parte del nostro dibattito TAV no TAV. Vi ricordo che i nostri ospiti sono i due maggiori tecnici che stanno discutendo di questa cosa, Mario Virano pro TAV e Angelo Tartaglia no TAV. Allora, Mario Virano, Tartaglia prima diceva che i flussi di traffico calcolati sulla base delle previsioni governative portano a dei risultati un po' paradossali, insomma con dei numeri altissimi, e che questo è anche un po' in contraddizione con l'idea di fare solo il progetto low cost, cioè solo il tunnel di base. Sarebbe come avere un viottolo d'accesso in entrata, uno di uscita e in mezzo un'autostrada. Lei cosa risponde? Confortante e sorprendente che nel descrivere le caratteristiche della linea storica il professor Tartaglia utilizzi l'analogia con il viottolo, perché è sempre stata considerata una dorsale ampiamente sufficiente ad assorbire, salvo piccoli adeguamenti, il fabbisogno di trasporto. Questa però consideriamola una battuta a margine. Quello che io voglio dire è che nel ragionamento che ci ha prospettato mi pare di capire che non è considerato Ventimiglia. Tartaglia, scusi. Bianco al mare, quindi ci sta anche Ventimiglia nei numeri a cui faccio riferimento. Beh, se cita anche Ventimiglia, allora i numeri sono abbastanza diversi. Resta il fatto che il cuore della questione è se noi stiamo parlando di una cattedrale nel deserto o se invece esiste un sistema di relazioni economiche che la motiva. Il quadrante ovest europeo, gravitante intorno a questa dorsale, che vuol dire collegamento con la Francia, una parte del collegamento con il Regno Unito e il collegamento con la penisola iberica, valgono praticamente come i collegamenti con l'area tedesca. In particolare la zona gravitante intorno a questo, che è l'area formalmente definita di AlpMed, 5 regioni, 19 milioni di abitanti, 1,8 milioni di imprese, 175 milioni di presenze turistiche e di cui l'asse Torino-Lione è sostanzialmente la direttrice baricentrica e che vale praticamente un medio Stato europeo, dimostra che i fondamentali economici ci sono tutti. Dopodiché osservo che oggi la quantità di traffici che via gomma e via ferrovia interessano le relazioni tra l'Italia e questo quadrante sono circa il doppio di quelle che interessavano sempre strada e ferrovia un po' di anni fa la Svizzera, quando la Svizzera ha deciso da sola, senza cofinanziamenti, senza contributi europei, non facendo parte della UE, di realizzare il traforo dell'Ösberg, il traforo del Gottardo, il traforo di Monteceneri e poi ancora un altro nella zona più a nord. Allora, il problema vero è che gli attraversamenti alpini sono una grande questione europea ed è il tema con cui ho esordito. Di questi attraversamenti alpini ci sono tre quadranti. Quello est, imperniato sul Brennero, di cui si realizza il tunnel di base. Quello al centro, con il doppio corridoio dell'Ösberg e del Gottardo, con due tunnel di base. E il quadrante ovest, che vive oggi sul tunnel, quello più vecchio, è realizzato alla quota più alta. E non riesco francamente a capire come si possa, in termini di buon senso, poi possiamo strutturarlo scientificamente, ritenere che mentre gli altri collegamenti vengono innovati dal punto di vista radicale, trasformandoli in collegamenti di pianura, dove le ferrovie possono essere competitive e l'unico modo per far andare in pianura i treni dove ci sono le montagne è forarle alla loro base, cioè alla quota di pianura, questo che vale a est al centro, ad ovest dovrebbe invece scontare il fatto che si rimane ancorati ad un'opera del 1871. Siamo in una situazione, in un contesto economicamente molto vitale, e pensiamo di gestire l'attualità e il futuro con un'opera dell'epoca in cui si andava ancora a cavalli, c'erano i primi treni, ci si illuminava a vapore e si scriveva con la penna d'oca. C'è qualcosa che non mi torna. Angelo Tartaglia, ascoltando Virano, effettivamente quello che viene fuori è che questa interpretazione della scenaristica dovrebbe effettivamente tener conto anche, come dire, di progettualità che ci sono già state nel passato, nel senso che effettivamente dei grandi sviluppi ci sono stati nell'economia, nel traffico, nella gente che viaggia, insomma. Per quale ragione, anche se è comprensibile questo fatto che lei dice, cioè dobbiamo cercare di andare su un'economia che riesca a consumare meno, quindi ad avere meno prodotti da scambiare, però come possiamo effettivamente dire che non ci sarà un grande incremento, una grande necessità di spostarsi in un paese che va costruendosi, insomma, questa Europa? Ma stiamo parlando di tonnellate qui, non di persone. Io sto osservo che il flusso tra Italia e Francia non è piccolo, anzi è molto grande, circa un terzo del totale che attraversa le Alpi. I volumi di traffico che si muovono in Europa sono molto alti perché l'interscambio tra le varie aree produttive è molto grande. Quello che non è credibile è che questo possa crescere di molto perché ci sono dei vincoli fisici. Le previsioni governative, lo dicevo prima e si trova scritto nei documenti ufficiali, dicono che nel 2035, non è poi così lontano, ci sarebbero in Val di Susa 58 o 52, secondo delle versioni, milioni di tonnellate su strada. Vi lascio immaginare immaginare che cosa questo possa indicare. A Chamonix non vogliono più del tutto i camion, in Val d'Aosta vogliono contingentarli, in Val di Susa, migliorando la ferrovia, se davvero la crescita del traffico fosse quella che è indicata in quei documenti, avremmo qualcosa come da 4 a 5 volte il numero di camion che ci passano adesso. Già solo questa constatazione fa venire in mente il sospetto che ci sia qualcosa che non funziona in questa idea di tonnellate, tonnellate, tonnellate che vanno e che vengono. Sono anche eccessive. Perché le tonnellate corrispondono a degli oggetti, bisogna immaginare che cosa diavolo siano questi oggetti. Oggi si spostano i bit, non siamo nel XIX secolo, oggi siamo nel XXI. Ora, in termini di tonnellate possiamo muovere elettrodomestici, possiamo muovere, che ne so, automobili, in qualche misura derrate alimentari. È molto difficile immaginare come quei numeri lì possano moltiplicarsi in maniera impressionante come è previsto dal governo. Dopodiché io torno a fare i conti, prendo i numeri governativi e ricavo risultati paradossali. Ricavo nel 2035 la saturazione della linea ferroviaria tra Francia e Italia, perché quella è quella storica, anche se uno ci avesse fatto in mezzo il tunnel, il quale sarebbe ampiamente sottoutilizzato, e questa incredibile esplosione sulla strada, perché viene detto che le merci ci sarebbero comunque. I grandi flussi in crescita sono quelli verso i mercati non saturi, quelli non saturi saranno l'Africa del Nord se si tranquillizza, il Medio Oriente, ovviamente l'India e la Cina, e anche di là arrivano i grandi flussi di beni di consumo sostitutivi dei nostri, perché là sono prodotti a costi più bassi. Qui stiamo parlando di una relazione est-ovest tra aree che sono sostanzialmente analoghe. Se poi uno analizza questo corridoio Algeciras e così via dal punto di vista tecnico, scopre delle cose interessantissime, cioè l'unico tratto che sarebbe a 25.000 volte il tunnel di base che dovremmo costruire qui, il resto sono linee ordinarie, il flusso che dovrebbe passare in quel tunnel si fermerebbe a Novara, perché poi oltre la linea non lo porterebbe, nemmeno la Torino-Milano potrebbe portarlo. Non parliamo poi della frontiera italo-slovena, in cui c'è la competizione tra Trieste e Capodistria, per cui lì l'allacciamento potrebbe essere fermato per ragioni politiche. La Spagna non ha nessuna intenzione di costruire una nuova linea per le merci, utilizzerà quelle che ci sono, aggiungendo una rotaia in mezzo alle due che ci sono per consentire il passaggio anche dei treni che vengono dal resto dell'Europa. Ce n'è una valanga di cose così che rendono il quadro reale, sostanziale, altamente incongruente, cioè, i grandi scenari, le grandi dichiarazioni. Io credo che l'intenzione di tutti sia avere un futuro migliore per coloro che lo dovranno vivere, un futuro in cui si trova immersi in valanghe di camion e così via, di per sé allucinante, ma al di là dell'allucinante o meno, che è un giudizio soggettivo, non è credibile per motivi materiali. Più di un'auto a testa non possiamo di sicuro avere, più di tre televisori in casa è improbabile che li abbiamo, più di una lavastoviglie e una lavatrice in ogni famiglia non possiamo pensare. Che cosa mai dovrebbe viaggiare in misura tale da moltiplicare addirittura per 10 i flussi di merci che attraversano la frontiera italo-francese lungo quel povero asse che è l'asse tra Lione e Torino? Beh, mi pare effettivamente che il centro del dibattito, della scenaristica, insomma il dato tecnico su cui si discute, è quanta merce effettivamente transiterà in Europa da qui a 20 anni. Diranno effettivamente questi numeri che prevedono una grande quantità di merci, insomma 50 milioni di tonnellate su strada, le sembrano però verosimili, cioè è uno scenario che lei ritiene al quale dobbiamo comunque prepararci? È una interpretazione, come dire, un po' di comodo questa, nel senso che le motivazioni sono molto più strutturali, non sono la risposta mercantile ad una domanda stimata. Ho già ricordato in più occasioni che nel 1846 Cavour pubblicò una carta delle ferrovie che lui riteneva necessarie per l'Italia. Lui ha immaginato la rete ferroviaria come un grande fattore di unificazione. La stessa operazione immaginata da Delors prima e da Callas poi è la stessa cosa a livello europeo. Dopodiché tutti i conti, i numeri che vengono fatti non tengono conto di un dato fondamentale, che ci sono degli standard. O noi adeguiamo gli standard o altrimenti il risultato non sarà il declino, sarà la morte della linea. Tartaglia, lei cosa risponde? La questione dell'adeguamento richiederebbe un tempo che noi ovviamente non abbiamo, osservo solo che parlo sempre di merci, le merci in Spagna, in Francia, dove c'è l'alta velocità, nelle isole britanniche, non viaggia sulle linee a standard nuovo, viaggiano con un'alimentazione a 3.000 o a 1.500 volt. Osservo ancora che il TGV viaggia sulla vecchia Torino-Milano e non sulla nuova, quindi evidentemente dal punto di vista commerciale anche il TGV trova che nella tratta italiana conviene la linea vecchia. Ripeto il fatto, le ferrovie si dimensionano in base a quante tonnellate devono portare, i treni in base a quante persone e così via. Nel futuro si sposteranno sicuramente molti più bit e meno tonnellate. Le motivazioni per quest'opera sono in realtà un guazzabuglio di contraddizioni, non vorrei essere troppo brutale da questo punto di vista. I numeri non si possono ignorare, si può andare al di là dei numeri per carità, ma non si possono ignorare, bisogna che siano coerenti fra di loro, in realtà non lo sono. Quindi mi pare di capire, se si può sintetizzare, che Virano parla più di una visione strategica, quindi di adeguamento agli standard, di prospettive per il futuro, invece Tartaglia ribatte che la questione è proprio un limite fisico, e con i numeri e fisico, ma anche la materia. Standard non, secondo me non quadra. Un altro discorso è quello sugli scenari, il futuro, eccetera. Lascio il campo a sociologi, politici o quello che si vuole. Gli standard sono invece un fatto tecnico e su questo bisognerebbe approfondirlo molto, non c'entra il problema. Anche quei numeri lì tirati un po' per i capelli, eh? No, sono scritti nei documenti governativi. Sì, ma l'interpretazione è tirata per i capelli. Ma i numeri sono numeri, non è che si interpreta. I numeri sono numeri, ma l'interpretazione dei numeri è tirata per i capelli. Vabbè, io mi limito a fare le somme, le sottrazioni, le divisioni, punto. Alle volte si possono anche sbagliare le somme e le sottrazioni. Ci sono degli errori anche molto sbagliare, grandi. Quella è una cosa che so fare. Bien. Perché invece tutti gli altri, in Europa, in Italia, nel governo, in tutte le altre sedi, nessuno li sa fare, soltanto voi, quel piccolo gruppo li sa fare. No, voi siete delle persone serie che compie dei lavori apprezzabili, non avete il monopolio, ecco. Per carità. Infatti, ecco, vorrei vedere chi gestisce materialmente i numeri, confrontarmi con queste persone. No? Angelo Tartaglia, Mario Virano, ci sembrava assolutamente ovvio che ci fosse una parte finale in cui vi rispondevate un po' e parlavate direttamente, non pensavamo evidentemente che uno potesse convincere l'altro, ma anche perché la materia è decisamente complessa. Però insomma, speriamo di aver dato un quadro effettivamente di questa intricatezza e di qual è la sostanza dal punto di vista tecnico e scientifico della cosa. Vi ringraziamo entrambi e vediamo, magari ci risentiremo in un punto più avanzato con interpretazione sui numeri e sulle vostre opinioni. Bene, grazie molto. Andiamo per mare adesso. Sì. Ciao Chiara. Ciao Federico, cambiamo completamente argomento e diamo qualche consiglio, possiamo dire così, agli ascoltatori che vogliono vivere, non so, un'estate un po' diversa o comunque con un occhio di riguardo per la natura, per l'ecologia, e quindi dobbiamo andare per mare e ovviamente in barcavela, che è il mezzo più ecologico che c'è nei nostri mari. Il più marino. Ne parliamo perché ci sono dei campi vela rivolti soprattutto ai ragazzi, ma non solo, ora lo vediamo, all'Isola d'Elba, che hanno appunto un taglio che hanno proprio un occhio di riguardo per l'ambiente. E qui con noi questa sera c'è il presidente della ONLUS, dell'associazione sportiva che organizza questi campi del vento, è qui con noi Alessandro Palladino. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera Chiara. Buonasera Alessandro. Ti troviamo a bordo della vostra barca, come si chiama? Kidan. Kidan, ecco. Che può ospitare fino a quanti ragazzi? Allora, noi ospitiamo in ogni turno dai 7 agli 8 ragazzi a seconda della barca. In particolare su questa ce ne sono 8, più due persone di staff, che sono lo skipper e una guida ambientale. E quanti anni hanno i ragazzi che frequentano i vostri campi? Noi come range di età abbiamo dai 12 ai 17, poi abbiamo diversi prodotti, però la fascia è questa qui. Abbiamo detto che le vostre campagne sono così, come dire, amiche dell'ambiente. Perché? Perché ovviamente andate in barcavela, quindi il mezzo ecologico per eccellenza, ma non solo. Esatto, anzitutto la nostra barca a vela, in particolare questa qui, il Kidan, è dotata sia di pannelli solari che di generatori eolici, quindi è virtualmente autonoma. Anche un dissalatore, quindi noi dissaliamo l'acqua di mare. Bevete l'acqua acqua di mare. Esattamente. E la barca a vela in sé è una palestra di ecologia e di economia domestica, se vogliamo dire. Quindi già il solo fatto di essere su una barca è istruttivo da questo punto di vista per i ragazzi. Quando salgono a bordo devono spegnere i cellulari, vero? Questa è la regola. Esattamente, esattamente. Non ci sono cellulari, non c'è Facebook. Niente. Niente di niente. Acqua e vento. Ma quanto ci stanno? Ma normalmente una settimana, facciamo dei campi di una settimana. E girate insomma con la barca, fate avvistamenti ovviamente degli animali, cetacei, specie marine e non solo. Esatto, noi abbiamo, oltre allo skipper, questa guida ambientale, fa fare ai ragazzi diverse attività, tutte improntate alla conoscenza dell'ambiente mare, dalle passeggiate a terra, allo snorkeling, preceduto e seguito da lezioni di biologia marina, in modo che i ragazzi imparino a conoscere l'ambiente che stanno per vedere e poi siano in grado di riconoscere le specie di animali, di piante, anche minerali, tutto quello che incontriamo, in modo che imparino a conoscere l'ambiente. Quando scendete a terra, se vi capita di trovare ad esempio una spiaggia con qualche sporcizia, sappiamo che la plastica è un po' ciò che affligge un po' i nostri mari, loro cosa fanno? La puliscono. La puliscono. Sì, facciamo anche queste operazioni di volontariato, per cui ci organizziamo e raccogliamo la spazzatura che troviamo sulle spiagge, perché noi con la barca arriviamo su spiagge che sono raggiungibili solo dal mare e quindi sono spesso sporche. C'è vento, sento. Giustamente siamo in collegamento con Campi del Vento e il vento è il protagonista dell'intervista, giustamente. E non ci limitiamo soltanto a raccogliere quello che troviamo sulla spiaggia, ma lo analizziamo anche, quindi cataloghiamo i rifiuti per capirne l'origine e andiamo anche ad analizzare delle particelle, dei campioni di sabbia con un microscopio che abbiamo a bordo per vedere se ci sono dei polimeri mischiati insieme ai granelli di sabbia, perché stiamo facendo una ricerca di questo tipo. Senti, ma questi polsini che si mettono per il mal di mare funzionano? Io ne soffro un po'. Ma guarda, in realtà noi non abbiamo raramente questo problema. Sì. Funzionano, ma poi noi... Puoi andare, Federico. Perché in realtà, diciamolo, puoi andare anche tu, perché ad agosto, se non sbaglio, organizzate le cose anche per le famiglie, per i più grandi. Esatto, facciamo lo stesso programma ma con le famiglie, quindi ospitiamo a bordo anche i genitori di questi ragazzi e facciamo le stesse attività, ovviamente in una versione un po' più soft, per gli adulti poi non hanno quell'entusiasmo dei ragazzi. Ecco. Però le attività sono bene o male le stesse. Ma si dorme a bordo sempre? Entrate in un porto la sera e si dorme a bordo? Certo, e non solo. I ragazzi devono gestire completamente la barca in tutti i momenti, quindi anche la cucina, le pulizie. I ragazzi sono completamente autonomi. È lì che si vede anche forse il risparmio delle risorse, no? L'acqua in barca è molto molto importante, non bisogna sprecarla. Esatto, e non solo, i ragazzi imparano anche a collaborare, perché noi siamo in un mondo in cui sono abituati a competere, in barca è fondamentale la collaborazione, perché sono un equipaggio quando sono sulla barca. È vero, bello, bello, un bel campo completo. Allora, dove vi troviamo, Alessandro? Come base voi avete Porto Ferraio, giusto? Sì, naturalmente noi siamo sempre in giro, perché la nostra è un'attività itinerante, rientriamo nel fine settimana a Porto Ferraio e per chi vuole scoprire le nostre attività c'è il sito internet. Ecco, ricordacelo. E campidelvento.it. Perfetto, Alessandro, come si suol dire, buon vento? Grazie, anche a in voi. In poppa, ciao. Restiamo bene o male in zona. Sì, restiamo in mare. Ma anche lì abbastanza vicino. Sì, è vero, assolutamente. Andiamo nel Santuario dei Cetacei, che è una porzione di mare, un triangolone di mare che sta tra la Corsica, la Liguria e la Toscana. E comprende anche l'arcipelago toscano di cui abbiamo appena parlato. Andiamo perché anche lì si organizzano delle campagne naturalistiche sempre in barca, organizzate dall'Istituto Tetis, che è un grosso gruppo di ricerca che si occupa esplicitamente di cetacei, quindi di delfini, balenottere e così via. E qui con noi stasera c'è Sabina Airoldi. Ciao Sabina, ti diamo del tu perché ci siamo sentiti parecchie volte. Sì, certo, un saluto a te e a tutti gli altri ascoltatori. Ciao Sabina. Tu sei biologa marina, ovviamente ricercatrice dell'Istituto Tetis, e diciamo che cosa state organizzando organizzando per questi primi giorni di agosto? Avete qualche campagna, avete ancora qualche posto, giusto? Noi abbiamo sì ancora dei posti liberi, qualcuno è rimasto nel nostro monitoraggio che ormai da quasi 25 anni facciamo nelle acque del santuario. Cioè noi abbiamo tanti anni fa iniziato queste campagne che ci servono per studiare e per conoscere i cetacei che vivono nelle acque del Mar Ligure, però abbiamo deciso fin dall'inizio di non relegare queste attività di ricerca solo agli addetti ai lavori, cioè ai ricercatori e agli scienziati, ma di lasciare alcuni posti per chiunque, cioè per chi è appassionato e fa tutt'altro magari nella vita, il commercialista, il panettiere, ma vuole sostanzialmente vivere un'esperienza particolare di fianco ai biologi marini e incontrare questi fantastici animali che vivono nei nostri mari. E il lavoro infatti è prettamente quasi da biologo, perché insomma io ci sono stata quando facevo l'università, ahimè quasi 10 anni fa, e lì ci fate lavorare proprio. Sì sì, assolutamente sì, nel senso che ci si alza con i biologi, quindi piuttosto presto se le condizioni sono buone, ci si mette tutti a fare i turni di avvistamento, quando si incontrano gli animali c'è chi prende i tempi respiratori, chi fa la fotoidentificazione, chi passa i rullini, insomma si cerca di coinvolgere tutti quanti, quindi ognuno in prima persona si può veramente sentire partecipe in prima persona di fare qualcosa di attivo nella conservazione e nello studio di questi animali. Ecco, ma su che mezzo, su quale natante, com'è che siamo messi a bordo? Siamo messi bene, perché siamo su una meravigliosa barca di 21 metri. È ancora il Gemini? Non è più la Gemini, la vecchia mitica Gemini, perché a un certo punto siamo stati purtroppo costretti a cambiarla, ma ora abbiamo la Pelagos. Devo dire è una barca estremamente comoda, sembrerebbe quasi fatta apposta per la nostra ricerca, con bellissime cabine, ognuno col bagno, l'acqua calda, l'aria condizionata. La crociera? Lusso, quasi per a cui eravamo abituati. Quindi ma sostanzialmente è una piattaforma di lavoro che però fornisce tutti quei comfort che permette sia ai ricercatori che ai partecipanti, insomma, di vivere un'esperienza piacevole. Quanto dura? Quanto si sta a bordo? Circa una settimana, nel senso che la gente arriva il lunedì, quindi si imbarca il lunedì nel tardo pomeriggio e sbarca la domenica mattina. E nel resto dei giorni, martedì all'alba, insomma, si lascia al porto, se le condizioni del mare naturalmente lo consentono, noi si sta fuori tutta la settimana. Devo dire, la settimana scorsa, proprio ho letto in questi giorni il blog e il report che mi hanno fatto i miei ragazzi a bordo, io purtroppo sono a terra, e devo dire mi hanno detto che sono stati 2 notti in mare tra la Corsica e Sanremo, da dove parte la nostra imbarcazione, e hanno dormito con le balene, nel senso che erano fermi, sono rimasti tutta la notte attorniato e mi dicevano: Sabina, sentivamo proprio il respiro delle balene e siccome c'era la luna le vedevamo anche. Quindi, che insomma, bello, che meraviglia, un'esperienza straordinaria. Senti, cosa costa? 2 milioni di euro? No, ma guarda, molto meno di qualsiasi altro charter. Tieni presente che andiamo da varia seconda delle settimane, tra dagli 860 ai 960 euro, tutto compreso, un'intera settimana. All inclusive, anche i cocktail a bordo. Ecco, proprio perché la Tetis appunto è un centro di ricerca anche, vogliamo anticipare che a settembre partirà un progetto piuttosto grosso finanziato dal Ministero proprio sulle balenottere di cui ci parlavi. Ci puoi anticipare qualcosa? Poi magari a settembre ci collegheremo dalla barca. Assolutamente sì, perché sarà veramente una grande emozione per noi sicuramente, ma anche per tutti coloro che sono interessati a sapere, innanzitutto, che esistono le balenottere comuni, che sono gli animali più grandi al mondo, secondi solo alle balenottere azzurre, che vivono nei nostri mari. La domanda è: dove vanno d'inverno questi animali? Ecco. E la risposta cercheremo di averlo grazie al finanziamento del Ministero dell'Ambiente, mettendo dei tag satellitari su un numero, adesso vediamo, insomma, tra i 9 e le 12 balenottere, metteremo questi tag che sostanzialmente ogni volta che l'animale emergerà manderà questo segnale al satellite e noi, il satellite poi rimanderà ai nostri computer a casa il segnale, quindi ci permetterà sostanzialmente di vedere a casa in tutta rilassatezza dove è questo animale, dove si sposta, e speriamo di poter anche organizzare un sito internet che permetterà a chiunque da casa, almeno per uno o due animali, di seguire questi animali e di vedere dove vanno, insomma un po' come se mettessimo una microspia addosso e potessimo di nascosto guardare dove vanno. Ecco, appunto, ma le balene non hanno il collo, non è un nastrino, com'è che è fatto? Che cos'è il tag? Cos'è questo apparecchiotto? Allora, il tag è un trasmettitore che emana un segnale, questo segnale segnale arriva al satellite come se fosse un satellitare. Ecco, questo manda al satellite Argos un segnale e il satellite rimanda a un nostro receiver, quindi a un ricevente, il segnale. In questo segnale c'è la posizione degli animali. Ma è grande come un navigatore, come un telecomando, una roba di questo genere come dimensione? È ancora più piccolo, tutto naturalmente dipende dalla batteria, però si tratta veramente di qualche centimetro. Insomma, è una piccola, come posso dire, una piccola punta che penetra nel primissimo strato di pelle di grasso, tenete conto che loro hanno svariati centimetri di grasso, e viene, diciamo, trattenuto per non molto, ben per loro, purtroppo per noi, perché dopo pochi mesi, naturalmente, come se fosse una piccola spina, viene nel corpo dell'animale, lo estrude, quindi in modo molto naturale, a un certo punto l'animale piano piano ha una rigenerazione cellulare velocissima, molto più veloce di quella dei mammiferi marini, per cui a un certo punto piano piano la pelle lo elimina. Noi cerchiamo di, appunto, fin tanto che rimane all'interno del primo strato di pelle di grasso dell'animale, avremo i dati, e poi dopo di solito 2-3 mesi massimo la balena se ne libera e noi a quel punto niente, perderemo le tracce, però insomma almeno per i primi mesi questo dovrebbe darci delle informazioni fondamentali per la conservazione di questi animali. Sugli spostamenti, insomma, dove vanno d'inverno. Esatto. E la finalità è solo trovare il modo per conservarle meglio, cioè per poi poter veramente promulgare delle adeguate regole di conservazione che aiutino questi animali, e dobbiamo sapere veramente sempre di più per poter proteggerle meglio. Va bene, allora poi, Sabina, buona estate, e noi ci ricolleghiamo con voi quando parte il progetto. Assolutamente sì, vi aspettiamo, così vi terremo informati del movimento delle nostre balene. Ciao ciao, buona ciao estate. Sabina. Ciao a tutti voi. Vanno tutte a Cortina d'inverno. La puntata è finita, tu avevi qualcos'altro? Avevo un sacco di argomenti, ma li tengo per la prossima settimana, che è tempo di Olimpiadi, quindi qualche sorpresina la riserviamo anche noi. Intanto buon weekend. Buon weekend a tutti, ci sentiamo qui fra 7 giorni. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.